Io sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Quanto alla Lega, io dico che sono sempre lieto dei voti che vanno alla Lega. Adesso si sono trovati questo goleador che è Salvini, l'ho sentito... Pure milanista. Sì, è milanista e penso che gli piacerebbe di fare il vicepresidente del Milan. Comunque il fatto che lui fa centravanti, fa i gol... Però, ed è bravissimo perché ha un modo di parlare alla gente di protesta, molto concreto, basta euro, basta tasse, basta immigrati. A me andrebbe anche bene di fare il regista dietro Salvini. A Salvini come possibile leader della coalizione centrodestra? No, ho detto come attaccante marcatore, colui che va in televisione e fa i gol. È tutto chiaro, Berlusconi regista, Salvini goleador, però quando gli hanno detto c'è Bruno Vespa, gli ha detto c'è il leader, no, ho detto il goleador, leader no, e il leader si sa in una squadra, è il regista poi alla fine, no? Così Silvio Berlusconi è tornato pubblicamente, ne ha regalate di alcune, tra poco sentiremo anche qualcos'altro e la vede così, questo nuovo centrodestra, Salvini goleador e lui regista. Sta traversa di Esharawi, maledetti, no, Salvini traversa, no! Come il Sharawi. Sono tre giorni che me la sogno, non me la tolgo più sta traversa. Certo che anche tu, Peter Piscapè, se mi metti l'audio di Caressa che mi spara sulla traversa. Ah, questo tiro del Sharawi sarà stato con te. Ma mi sa che il nostro Luca Dini, il nostro direttore, credo sia un interista, vero? Sì, vabbè, c'è poco da ridere per me. No, perché invece io mi faccio delle grasse risate. Però magari se c'era Salvini era, insomma, andava meglio. Appunto, perché... appunto. Questo è chiaro, lo segnava anche Salvini. Anche tu. Anch'io, ma io l'ho detto lunedì, l'avrei segnato sicuro questo gol. Adesso, a 43 anni, con la panzetta, cioè, Salvini anche l'avrebbe segnato, solo il Sharawi è riuscito a buttare sulla traversa. E vabbè, sei contento, di la verità. Va bene, allora il nostro direttore c'è anche Lorenzo Nespoli in redazione, dopo il Parlamento che apriamo subito, voglio però salutare la nostra Rossa. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Dopo la Boschi arriva qualcuna che è molto meglio della Boschi, la nostra Paola. Cosa c'è? Perché non va bene? Ma è meraviglioso, ma buongiorno. Buongiorno. Buongiorno super direttore. Vogliamo parlare buongiorno. Di Jessica Pa di Mosca? Vogliamo Jessica... parlare della Roma? Ma che è successo vogliamo... infatti? Ma tu al 93 sta palla così. E ognuno ha i propri dolori, miei cari. Gelati a Mosca, ma proprio gelati. Vabbè, ma non ho capito. Ma adesso c'è la partita col Manchester, vabbè. Quella decisiva. Questa sì che è decisiva, mica come le settimane decisive per la riforma elettorale. Ma insomma, quindi Salvini milanista. Salvini palo, tronco, cosa tocca? No, no. Salvini fa gol, ha detto Berlusconi, e lui è il regista, quindi... Capisco. Vuol dire che Berlusconi decide tutto e Salvini se ne preparano delle belle, prende i voti, se ne preparano delle belle, chissà il centrodestra. Invece nel centrosinistra contano i voti persi, c'è Bersani che dice a Renzi: guarda che se vai avanti così cadi dall'ottavo piano e fai un gran botto. C'è Rosi Bindi che fa un'intervista a un... eccola. Eccola là, inizia il nostro direttore. Eccolo, eccolo, eccolo. Direttore. Eccolo che torna con le sue zampate. Che bisogna dire qua? È tutto analisi politica adesso, che succederà? Il centrosinistra, il centrodestra, la sinistra che si divide, 40 della minoranza che escono per la votazione al Jobs Act. E vabbè, divertiamoci un po' con Berlusconi. Dai, Berlusconi ha detto questa parte gol. Che cosa ha detto ancora? Sentiamo Berlusconi alcune. Per esempio, il patto del Nazareno non è archiviato. Mamma mia, queste cose sul patto del Nazareno alle 6:36 del mattino. Dai, possiamo considerare archiviato il patto del Nazareno? Assolutamente no, perché è un patto non tanto con Renzi ma con il paese, in quanto questo un patto paese con il paese, il patto del Nazareno. Tu hai firmato un patto, caro Luca Dini? Un patto con gli italiani. Tu non lo sai, ma hai firmato, ti hanno venduto come un'enciclopedia al patto del Nazareno. Esatto. E tu non lo sapevi. E invece no. Sì. Tu hai firmato, Paola? A mia insaputa, no, io ormai ho solo un titolo davanti agli occhi, sì. E tra l'altro devo rifarmi al Sole 24 Ore, al vostro direttore, al direttore ovviamente del giornale, che l'ha ripreso dal titolo del Mattino del, sì, 24 novembre 1980. Fate presto, qualsiasi cosa, ma fate presto. Fatelo. Ma poi Berlusconi, sapete che quando torna, su questa secondo me ve la siete persa, l'abbiamo trovata, una chicca veramente. Sapete che c'è questo piccolo problema, c'erano inchieste di quando Gheddafi trattava gli immigrati, i migranti meglio, come schiavi, li metteva nei lager. C'è stata l'inchiesta di giornalisti che hanno raccontato i campi veramente di lavoro in Libia terribili. Sentite invece Berlusconi che cosa dice di Gheddafi e i migranti. In Libia, dopo Gheddafi, che avevamo ormai addomesticato, che aveva messo in campo 6.000 soldati in turni diversi, non veniva più un emigrante dal centro dell'Africa, l'avevo convinto a costruire dei campi di accoglienza, ero riuscito addirittura a fare mettere nei bagni il bidet, 3.500, lui voleva euro, ero riuscito a far passare i dollari, il costo di questa operazione, in morale, le migrazioni erano ridotte a zero. 3.500 euro a bidet? No. Ha emigrato? No, totale dell'operazione nell'anno. Ma voi vi rendete conto? Ero riuscito, a parte avevamo addomesticato Gheddafi, Luca, l'avevamo addomesticato come un tigrotto, il tigrotto di Monpracem della Libia, no? E poi l'avevo convinto a mettere pure i bidet per i migranti, trattati così. Mamma mia. No. Allora il verbo è revisionismo. Cos'è che è revisionismo? No, ma adesso al di là della battuta, perché ci sarebbe poco da ridere, voglio dire. Paola, no, tu che vuoi dire, Paola? No, chiedo scusa, non volevo salire con la voce. No, dimmi. No, il verbo addomesticare, parlando di una belva come Gheddafi, ci stava. Ci sta tutto, perché parliamo di una belva, parliamo di un uomo che leggere con attenzione quello che faceva e la violenza che perpetrava anche personalmente, anzi soprattutto personalmente, a grandi e piccoli. Quindi parliamo di una belva a tutto campo. Dopodiché, ascoltiamo anche questa. No, certo, ragazzi, ho convinto Gheddafi a mettere i bidet. E la voce che gli ha detto era Antonio Polito, a 3.500 euro. Polito, a 3.500 dollari a bidet. No, l'operazione. Ma Luca, facciamo qualcosa, cosa dobbiamo dire? Cosa devi dire? Voi che avete fatto anche delle inchieste, tra l'altro, se ricordo. L'unica cosa che si può dire è vergogna. Poi, cioè, insomma, sono tali sciocchezze, poi a quel si stava meglio quando si stava peggio, sono totali sciocchezze. Il fatto è che non li vedevamo, va bene, quindi era meglio così, va bene, cioè, tanto vale prenderli e seppellirli tutti nel deserto, poi non arrivano, va bene così. Cioè, perché il concetto era, immagino, si parlava adesso della migrazione, no? Ne arrivano tanti, sì, eccetera. Quando c'ero io ero riuscito a convincere Gheddafi, perfino mettendo i bidet, di tenerli lì, nei campi, evidentemente dove facevano una bella vita, erano trattati abbastanza bene, secondo Berlusconi. Vabbè, comunque, cara Paola... Che... Ma l'operazione adesso, oltre al di là, oltre nel senso, al di là della frase di Berlusconi, il senso è... Non è tenerli lì, è quando arrivano, qualsivoglia governo ci sia, accoglierli significa far fare però poi qualcosa dopo, nel senso che far arrivare e salvare, secondo le leggi del mare piuttosto che altre leggi, le persone disperate è regola. Il problema è dopo. Il nostro paese deve risolvere annosamente da tanto tempo, da troppo tempo, il dopo. E questo è un problema che va risolto, perché che l'Italia sia una piattaforma allungata nel Mediterraneo e sia naturalmente, cosa fai se tu sei naufrago e vedi un pezzo di legno grande e grosso in mare, ti aggrappi? Ecco, l'Italia è questo. Vabbè, il dopo. Il dopo non è stato risolto da nessuno. Fino ad ora vediamo di risolverlo. Berlusconi l'aveva risolto. No, l'aveva risolto prima. Berlusconi l'aveva risolto prima, direttamente addomesticando la belva Gheddafi. Vabbè, c'è chi ci scrive: ma quale Boschi, c'è Paoletta Forever? Ma infatti io l'ho detto, e c'è Paoletta Forever. Caro direttore, invece c'è un piccolo problema. C'è un SMS, è un piccolo problema. C'è Maria Rosa che dice: con l'attacco a Bersani dica al direttore che ha perso una lettrice. Come No, non dire vabbè, devi recuperare una lettrice, Maria Rosaria. Non è un attacco, ma sì, soltanto che fa un po' ridere, cioè, voglio dire, no? È uno che ne sa di perdere voti e di farsi votare contro. Dai. Ecco, l'abbiamo persa definitivamente, Maria Rosaria con questo l'abbiamo persa. L'arte della critica esiste ed è democrazia, Maria Rosaria, su esatto. Via. Orbene, orsù. Vada subito in edicola a comprare Vanity Fair, che oggi c'è Tiziano Ferro in copertina. Allora, lo vedremo più avanti. Ieri però è successa questa cosa. Avete visto sta storia del canone della Rai in bolletta? Allora, ieri succede che abbiamo ospitato il sottosegretario Giacomelli alle 8:15, che per la prima volta annuncia in maniera trionfale il fatto che il canone Rai sarà in bolletta da gennaio, e quindi una roba abbastanza clamorosa, una rivoluzione. Sentite Giacomelli. Sottosegretario, volete mettere il canone della Rai, glielo chiedo subito, legato alla bolletta elettrica? Se lo chiedono tutti gli italiani. Sì, in bolletta, diciamo, legato alla bolletta dà un'idea di legato al consumo e non è così. Proprio in bolletta, quando accadrà questo? Diciamo, noi stiamo lavorando in questi giorni, contiamo di presentare già in Senato un emendamento alla legge di stabilità per inserire questa norma. Ecco, quindi lo strumento individuato è questo, la legge di stabilità, un emendamento in modo che venga approvato e sia efficace già da gennaio dell'anno prossimo, tra un mese. Sì. Questo al mattino alle 8:15. Cara Paola Saluzzi, caro Luca Dini, a sera Palazzo Chigi ha detto no, ritiriamo, solo che il sottosegretario Giacomelli fa parte del governo, quindi rientra il canone in bolletta Rai, che al mattino è entrato, il canone Rai che è entrato in bolletta la mattina è uscito dalla bolletta alla sera. Paola, qua... Fate ma io presto! Avevo sentito come ogni mattina, sì, religiosamente, quindi avevo sentito tutta l'intervista. Fate bene, presto! Vabbè. No, beh, oddio, è vero che 12 ore sono lunghe, eh? Sì, effettivamente in una mezza giornata succedono tante cose. Sono tante, e possono succedere tante cose, e siamo qui, capiamo che cosa accadrà, insomma. È uscito. Ho capito, è uscito. Ma tu lo vorresti? A me sembrava una cosa... Sembrava una cosa sensatissima, devo dirti, perché tra le altre cose, con un costo, tra virgolette, ridotto, e sembrava una cosa assolutamente sensata. Ho sentito anche quell'ascoltatore che ti chiamava e diceva: io non voglio pagare perché non seguo, perché se i miei dipendenti hanno un computer e guardano la TV, li licenzio, insomma. Poi questo vabbè, ma quello è il canone in azienda, è un'altra questione ancora, insomma. Però insomma sembrava un'idea sensata, e invece track. Uscita, uscita. Luca, tu Luca lo metteresti in bolletta per combattere l'evasione? Sì, ma vedrai che torna, Torna, no, no, cioè, nel senso, è entrato al mattino, è uscito alla sera e torna dopo domani. E com'è? Può darsi che torni, non lo so, cioè, questa cosa veramente non si capisce. Il mistero del canone della RAI in bolletta elettrica, ci sarà, non ci sarà? 24 mattino. Fare una domanda all'onorevole Alessandra Moretti, sì, insomma, quella che va dall'estetista tutte le settimane. Quella, onorevole Moretti, se lei oggi dovesse decidere, dove andrebbe? Al G8 o al Giletti? Siamo alle strette e voi di Radio 24 mattina ve la ridete, ad eccezione di Paola Saluzzo, donna bella e garbata. Ma tutte le migliaia di parole che Stella e Rizzo scrivono e pronunciano tutti i giorni contro la casta, contro i privilegi, contro tutti, facendoci conoscere situazioni incredibili, ma servono a qualcosa? Bah, glielo vorrei proprio chiedere. No, è mercoledì, no. Io non mi ricordo mai, cacchio, c'è quella Saluzzi, pare che mi scoppia un antifurto in macchina, io ancora sono rimbambito alle 6:15 di mattina, per favore, più calma, più calma. Brutto schifoso di un Milan, basta le facce di farci ascoltare quella traversa del cazzo del Ciarawi, portateci la Rossella Brescia! Complice la trasmissione 24 mattina di Alessandro Milan, è scoppiato l'amore tra la splendida giornalista Paola Saluzzi, detta La Rossa, e il direttore Luca Dini. Solo virtuale, tutti in retroscena sul prossimo numero di Vanity Fair, già in edicola. E vabbè. Scusatemi. No, ma vai pure avanti, tanto abbiamo ancora 5 minuti, puoi ridere. No, scusa, mi riprendo, no, direttore, no, oltre a questo, vabbè. Evidente che sia solo fuori. Luca Dini, smentisci subito, come Barbara Berlusconi e Filippo Inzaghi, smentisci Luca. Ma no, lasciamo un po' di sastre. Bravo, lasciamo che una smentita, com'è che è una doppia conferma, queste cose qua. Vabbè, hai creato dei mostri. Stiamo creando dei mostri. Sa. O ci sono dei mostri, ecco, nel senso agli ascoltatori, alcuni ascoltatori. A parte me. No. Vabbè. Paola, c'è anche uno che ti criticava. No, quello che ha detto l'antifurto che scoppia in macchina, ho iniziato a ridere, non l'ho smesso. Vabbè. Senti un po', Paola, adesso ieri tu mi hai mandato un messaggio un po' così che non ho capito. Ecco, io vorrei capire come comportarci, perché tu mercoledì scorso ci avevi fatto una mezza promessa. Il mio cavallo di battaglia è niente. Vabbè. Il discorso è, se uno imita il politico e parla con i politici, Pare brutto. Allora io lascio tranquilla la senatrice Taverna e faccio la brava. Va bene. Comunque è una simulazione. Ci fidiamo. L'imitatrice di Paola Taverna, ci fidiamo. Paola Saluzzi. Torneremo su questa cosa. Oh, allora, io però ho qui, ecco, Vanity Fair. Caro Luca Dini, se ti sentisse Marione Adinolfi, col suo libro a parte che non sapete cosa ha fatto di pazzia Adinolfi, ha messo su Twitter, rispondendo a un mio tweet, ma volutamente ha messo il suo numero di cellulare che ieri ha ripetuto qui in onda, ha detto chiamatemi pure tutti, non c'è problema, e ha detto ovviamente che lo chiama la gente alle 5 del mattino a dirgli ah ciccione. Quindi ha detto che è un'esperienza che ti sconvolge la vita e te la rivoluziona, quindi se tu anche Luca Dini vuoi dare il tuo cellulare, questo è il tuo momento. Certo. No, tu non lo fai. Tu Paola Saluzzi. La prossima settimana. Comunque Mario Adinolfi ha dato il suo cellulare anche qui ieri in diretta 3 volte, ha detto chiamatemi, non c'è problema, e ovviamente lo chiama. Può dare il cellulare di un altro? No, ecco, questa cosa non so. Di chi volevi dare il cellulare? scusate, stamattina mi ha preso. Eh no, ma adesso mi dici di chi volevi dare. Beh, mica si possono dire così queste cose. Vabbè. Ci sono dei segreti che vanno mantenuti. Ah, ecco, va bene. Allora, 40 anni padre. Ma cosa vuol dire? Cioè, vuol diventare padre Tiziano Ferro? Sì. Se ti sentisse, Tiziano Ferro, lo sapete, è gay, lo ha dichiarato, ha fatto coming out, eccolo qua, senti. Il nuovo singolo di Tiziano Ferro, te l'abbiamo messo. Che si fa Luca Dini? Cioè, perché se ti sentisse il buono Adinolfi del voglio la mamma, si arrabbierebbe un pochettino. Sento già l'obiezione, no? I figli sono un dono, non sono un diritto, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, le cose però che gli altri sono un diritto. Adinolfi banalmente nel suo libro dice questa tesi, cioè per fare un figlio ci vogliono una mamma e un papà. Questo la natura, insomma, non si può. Ma non si può cambiare. Anche nel caso di Tiziano Ferro, credo, cioè nel senso che comunque la clonazione non è stata ancora. Sì, certo, però è una mamma che verrà, una mamma che poi forse non farà parte della sua vita, questo è il concetto, verrà utilizzata, diciamo, per allo scopo e poi sì, lo so, cioè, allora veramente io mi astengo da giudizi perché non è il caso, dico soltanto che bisogna trovarsi una situazione poi prima di giudicare. Prima di giudicare. Comunque, in questa intervista dice tra le altre cose, appunto, che vorrà entro i 40 anni fare un figlio Tiziano Ferro. Che dobbiamo dire? Paola Saluzzi, auguri ai figli maschi. Leggeremo con attenzione. Che deve dire? Come sempre. Vabbè, tu alle 3 ieri ti ho visto combattere su un tema molto importante. Ieri la giornata mondiale contro la lotta. Io ti ringrazio. Contro la violenza. Contro la violenza alle donne. E poi iniziano gli successivi 364. Ho trovato le dichiarazioni di Erdogan, stabilito che le donne possono. Non dovrebbero usare la vanga e invece ce la fanno usare tante volte, tante donne sono legate anche ai lavori più duri, le ho trovate scandalose. Un vero illuminato, ma si può, Erdogan con quelle cose. Sono d'accordo con te, ma vi devo salutare, grazie a Luca Dini con Vanity Fair in copertina e Paola Saluzzi, la ritroveremo alle 15 su Sky, come sempre, alla prossima, niente! Volete dire la vostra? 02-4652-4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492 e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti. Vi ricordo che oggi partiremo anche con questa iniziativa nella quale chiameremo una volta al giorno, se possibile tutti i giorni, comunque chiameremo un italiano che ci ascolta dall'estero. Ci state ascoltando magari dall'estero, ci avete scritto da tutto il mondo. Oggi, pensate, avremo ospite il nostro amico Remo che ci ascolta dalle Seychelles. E da oggi inizieremo così questo viaggio, andando un po' in giro qua e là. Comunque parleremo poi anche della vicenda Ebola. Avremo Cecilia Strada, presidente di Emergency, ai nostri microfoni. Come parleremo dei vitalizi e consiglieri regionali. Gli ex fanno quasi tutti causa per gli annunciati tagli. Forse anche per questi motivi che la gente ha poca fiducia nelle regionali e va a votare e non va a votare, chi lo sa, i tanti scandali che hanno riempito le pagine dei giornali. Ne parleremo dalle 8:15. Ora state con noi perché ci tuffiamo nella lettura dei giornali. In questo mercoledì 26 novembre, intanto i titoli, le aperture dei quotidiani, molti sul Jobs Act approvato alla Camera, sì della Camera al Jobs Act, PD diviso, Renzi più tutele, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera invece, sì al Jobs Act, strappo nel PD, e Repubblica, passa il Jobs Act ma si spacca il PD, Berlusconi, patto su Italicum e Colle. mentre il giornale Il Patto del Panettone, Lega e Forza Italia. Per il Fatto Quotidiano i 750.000 secondari azzoppano Renzi. Renzi che dice secondaria la non affluenza alle urne, 750.000 sono i voti persi dal PD. La Stampa passa al Jobs Act, ma Renzi perde oltre 30 deputati. Libero, Silvio lancia Salvini premier. Come vedete molta politica nelle aperture. Avvenire invece apre sul Papa per l'Europa, un nuovo inizio, il Papa a Strasburgo. Il Messaggero invece sì sul lavoro, strappo nel PD. Queste alcune aperture mentre cadono i telecomandi, sono magie che succedono in radio. Allora, ieri avete ascoltato per caso l'intervista al sottosegretario Giacomelli che alle 8.15 annunciava il canone RAI nella bolletta elettrica con un emendamento alla legge di stabilità da mettere tra alcuni giorni e da rendere tutto operativo da gennaio 2015, quindi tra un mese. Ebbene, questo al mattino alle 8.15 le agenzie hanno rilanciato, hanno ripreso i siti, a sera è arrivata la smentita, la frenata, meglio dire, di Palazzo Chigi. Quindi nel giro di 12 ore il canone è entrato ed è uscito dalle vostre bollette elettriche. Il titolo dei giornali, salta il canone RAI in bolletta elettrica, pagina 11 del Sole 24 Ore, oppure il Corriere, stop del governo al canone RAI in bolletta, pagina 15, e ancora... Il Messaggero, canone RAI in bolletta, il governo frena. Al mattino a Radio 24 Giacomelli aveva detto ci sarà il canone nella bolletta elettrica, a sera la frenata di Palazzo Chigi, slitta tutto di un anno secondo il Messaggero, mentre la Stampa dedica a questo tema l'apertura, pagina 2 e 3. A pagina 2 il titolo è proprio questo, rinviato il canone RAI in bolletta. Il provvedimento non sarà legge, non sarà nella legge di stabilità, ma secondo la Stampa non sarà rinviato di un anno, ma il governo pensa a un decreto legge. Ci sarà, non ci sarà, a questo punto diventa un po' un mistero. Anche per il Fatto Quotidiano, il governo si smentisce, niente canone in bolletta. Ci sarà questo canone nella bolletta RAI? Lo scopriremo solo vivendo, in questo caso non si può davvero dire che altrimenti. A proposito però di televisione, c'è invece una persona, un personaggio molto molto popolare che finisce nuovamente nei guai, preso di punta dall'ordine dei giornalisti. L'ordine dei giornalisti è Barbara D'Urso. Pensate, racconta il giornale con Paolo Bracalini a pagina 11. Barbara D'Urso, che peraltro già fu espulsa dall'ordine negli anni 90 perché faceva spot pubblicitari, il che è vietato per un professionista. E ora che succede? La casta dei giornalisti, così titola il giornale, la casta dei giornalisti vuole imbavagliare la D'Urso. Il presidente dell'ordine dei giornalisti denuncia la conduttrice per esercizio abusivo della professione. Tutto è iniziato da un'intervista di un amico di Elena Ceste, la donna trovata morta dopo essere scomparsa da casa a gennaio, un'intervista che ha scatenato le ire nella rete, si parlava di TV del dolore, TV della vergogna, ed ecco allora che l'ordine dei giornalisti col suo presidente parla di TV in cui si esibisce la vita e la morte con l'unico obiettivo di acquisire attenzione da parte dell'opinione pubblica, e dopo l'attacco parte la denuncia alle procure. Racconta il giornale, addirittura rischia, non succederà mai, ma rischia, se applicato il massimo della pena, 6 mesi di reclusione, 6 mesi di carcere, Barbara D'Urso. Forse di più se addirittura passerà la legge proposta e già approvata al Senato e sostenuta dall'Ordine dei giornalisti per inasprire il codice per chi esercita abusivamente la professione. In carcere Barbara D'Urso per le sue faccine? Ma dai, su. Vabbè. Comunque questa è sul giornale. Ieri invece ha fatto molto scalpore la notizia che è stata pubblicata da Repubblica su questa sentenza a Milano di un giudice del lavoro che ha riconosciuto un indennizzo a vita per i familiari di un bambino perché secondo questo giudice si è accertato che questo bambino è diventato autistico per via di un vaccino. La scienza da anni dice che sono tutte puttanate. Ecco, questo dobbiamo dirlo nel modo che lo capiscano tutti. Anche la famosa ricerca pubblicata su Lancet anni fa di un medico che disse ci sono relazioni tra l'autismo e i vaccini, poi fu ritirata, fu cancellata da Lancet. Lancet è una rivista molto rigorosa, fu cancellata perché considerata quella ricerca appunto una puttanata. Però ancora nel 2014, racconta Repubblica con Corrado Zunino a pagina 25, ci sono, ovviamente si parla dopo questa sentenza, ci sono tanti movimenti no vaccino che sono quelli seri, scrive Repubblica, perché c'è una vulgata internettiana che fa solo danni alla conoscenza. Quelli seri sono radunati in tre associazioni, CONDAV, COMILVA, ASSIS. Insieme contano 750 danneggiati riconosciuti da medici militari, lo dice la legge, e Ministero della Salute. Sono tutti neonati e bambini. Comunque Repubblica torna su questo tema, la paura del vaccino che vince in tribunale, ora al fronte del no allarma la scienza. C'è anche un'intervista al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervistata da Michele Bocci, che dice questa sentenza di ieri è una sentenza pericolosa per la salute pubblica, perché diciamo fa credere appunto che i vaccini possano creare questo tipo di problemi e quindi poi la gente cosa fa? Non fa vaccinare i bambini e questo crea problemi appunto di salute pubblica. Ministro, è vero che non avete fatto ricorso contro la sentenza? Risponde il ministro Lorenzin: no, abbiamo presentato l'appello il 31 ottobre entro i termini previsti dalla legge. Ora i tecnici del ministero mi dicono che in quella decisione mancano i presupposti scientifici, è un fatto grave. Come in altri casi si tratta di una sentenza pericolosa per la salute pubblica. Dunque facciamo appello non per evitare di pagare il rimborso, ma per non far passare procedure. Un precedente così pericoloso per i vaccini come per tutti i farmaci possono esserci effetti avversi che non sempre si possono prevedere, questo nessuno lo nega, e infatti ci sono le leggi che riconoscono i risarcimenti, ma da qui ad affermare una relazione tra l'autismo e il ricorso a un determinato vaccino senza alcuna base scientifica ce ne corre. Questo il ministro Lorenzin, anche Avvenire dedica una pagina a questo tema, pagina 9, vaccini, la sentenza che divide, bimbo divenne autistico, ora rimporsi, i sanitari dicono così si rischia di seminare il panico. Mentre alla Camera, come scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 13, alla Camera c'è la corsa dei parenti di. I parenti di allo scettro della Camera, perché come abbiamo detto in varie volte in precedenza, va in pensione Ugo Zampetti, segretario generale da 15 anni, va in pensione a 65 anni e racconta Sergio Rizzo la successione che sarà tra il candidato numero uno, vale a dire Fabrizio Castaldi. Sarà lui il nuovo segretario della Camera? La presidente Boldrini punta proprio su di lui, figlio d'arte, suo padre è un ex consigliere parlamentare. Oppure vincerà Giacomo, la sorella, incidentalmente fratello di Carmen, la sorella, giornalista ora capo di RaiNet, considerato l'uomo sul quale potrebbe convergere la maggior parte dei consensi. Oppure Guido Letta, cugino dell'ex premier Enrico Letta e nipote ovviamente di Gianni Letta. Oppure vincerà Lucia Pagano, figlia ma anche moglie d'arte, visto che il padre Rodolfo Pagano è un ex consigliere della Camera e il marito Mauro Fioroni è appena stato nominato capo del servizio informatico del Senato. Insomma, se non l'avete capito, scrive Sergio Rizzo, non resta che rassegnarsi: nelle alte sfere della nostra burocrazia è impossibile sfuggire alle logiche familiari. Chiunque sarà il segretario nuovo della Camera, la corsa è quella dei parenti di allo scettro della Camera. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Ma siamo al momento della vittoria quotidiana del premio. Mani sul volante, continuate a mandarci le vostre foto e mi raccomando, perché me lo dicono tutti, ma come inciti la gente mentre guida? No, Non dovete usare il telefonino mentre guidate. Prima di partire, quando vi fermate, dal benzinaio al bar, fatevi una foto con le mani sul volante, oppure, come ce le mandate in treno, anche mani sui braccioli, mani sui finestrini, va benissimo. Ma il Fatto Quotidiano racconta che anche in Campania scoppia rimborsopoli e 7 consiglieri rischiano il processo. Vincenzo Iurillo, a pagina 6, arrivano col contagocce le prime richieste di rinvio a giudizio per la rimborsopoli della Campania. Anche lì 7 consiglieri sono accusati in totale di truffa, peculato per l'utilizzo illegittimo di circa 445.000 euro. Insomma, come direbbe Oscar Giannino. Milan, quante chiacchiere che dite al mattino. Questo è uno dei miei preferiti, è uno dei miei preferiti. Mi dicono come faccio a mandare un selfie sulle mani sul volante. Ragazzi, ma mandacela con una mano, non farlo fare ovviamente dalla bionda che ti siede a fianco, che poi tua moglie dice: come, chi è che ti ha fatto le foto che eri da solo in macchina? Ecco, insomma, ingegnati, caro ascoltatore, non lo so. Comunque mandatecelo, se volete, a 24mattino@radio24.it, oppure anche sul mio profilo Twitter, Alino Milan, già arrivano, io poi li retweet, poi mettiamo le foto sul nostro profilo Facebook. E insomma, ricordo anche che se vivete all'estero e ci ascoltate in questo momento dall'estero, qualsiasi paese anche, scriveteci 24mattino@radio24.it, noi vi chiameremo, da oggi chiameremo uno di voi al giorno, alle 8.50. Intanto qui continuiamo la lettura dei giornali per raccontare che ieri c'è stata l'approvazione del Jobs Act alla Camera, ora manca un passaggio ultimo al Senato, perché ci sono state delle modifiche, poi il Jobs Act è di fatto approvato, è legge, legge delega, poi andranno fatti i decreti attuativi. Renzi ha ringraziato via Twitter coloro che hanno approvato il Jobs Act, certo non evidentemente i 40 del PD che sono usciti al momento del voto. E quindi 40 voti del PD, chi ci sono tra questi? Anche dei nomi abbastanza famosi, Rosi Bindi, Francesco Boccia, e poi altri, Civati, Zoggia, cioè alcuni bersaniani, i civatiani, Cuperlo. Ecco, questa minoranza che ora, come racconta il Corriere, alza la voce e cerca una linea. Bersani invece ha votato per, come dire, dovere di disciplina. Fa però un'intervista a Repubblica l'ex segretario del PD Pierluigi Bersani, intervistato da Goffredo De Marchis a pagina 3. Il titolo è questo: la nostra gente non vuole scissioni, ma Matteo non faccia finta di nulla. Si parte sempre da lì, dall'astensionismo alle regionali che Renzi ha bollato come secondario. Renzi non riconosce un problema, dice Bersani, ha paura che se offre un dito poi qualcuno si prende tutto il braccio, ma negare l'evidenza e non abbassarsi alla discussione è un pericolo, può fare un volo dall'ottavo piano e il botto sarà ancora più grande, dice Bersani di Renzi. Il dato dell'astensione è agghiacciante, Renzi non dovrebbe temere nulla da un'analisi seria della situazione, perché io penso che il messaggio di quegli elettori non sia uscite dal PD, bensì risolvete tutti insieme. Cosa è successo in Emilia? È successo che un sacco di cittadini, anche i nostri elettori, ha una sensazione di estraneità, la voglia di chiamarsi fuori, un elemento di rifiuto, non sono andati da altre parti, ma hanno detto no. E io credo di capire perché, lo ha scritto bene Michele Serra su Repubblica, il centro-sinistra in quella regione ha sempre avuto il compito di dare un senso alle cose che si fanno. E se si perde il senso, cioè un messaggio di coesione, non si interpreta quella gente. Ricordo, come scrivevano ieri i giornali, che se il 37,7% ha votato in Emilia-Romagna, nel paese di Bersani Bettola ha votato il 23%. Quindi, diciamo, non è che neanche Bersani, stando almeno ai suoi compaesani, ha la soluzione giusta. Questo almeno stando ai freddi dati. Comunque, oltre a Bersani, anche Rosi Bindi fa un'intera pagina di intervista al Corriere della Sera, intervistata da Monica Guerzoni. Dice: si torni all'Ulivo o noi usciamo. Matteo ha deluso, è già in caduta. Non ci siamo divisi. La minoranza si è spaccata in tre, però, presidente Bindi. Gli obiettivi di chi ha votato no e di chi ha lasciato l'aula come me erano gli stessi. Comunque, dice, non rimpiango Enrico Letta, ma il paragone è con Grillo, con Salvini, col Berlusconi dei primi anni, il paragone di Renzi. La rottura della politica col paese reale è profonda e sembra rimarginarsi quando gli italiani si affidano al salvatore di turno per poi, delusi, andare a ingrossare l'unico partito che vince, quello dell'astensione. Non sono io la rottamata, non gufo in quanto rottamata, rottamati sono 750.000 elettori in un colpo solo e non la Bindi. Renzi ha deluso. Questo Rosi Bindi. E anche Susanna Camusso completa il trio, se volete, di critiche in un'intervista al Quotidiano Nazionale. La leader CGIL dice: Renzi disprezza la CGIL, contro di noi, schiaffo alle urne. Tra l'altro, intervistata da Pierfrancesco De Robertis sul Quotidiano Nazionale, trovate l'intervista a pagina 5, racconta che questo piccolo retroscena: mi regalano da un po' gli amici gufi e civette, me ne volevano regalare anche uno vivo in gabbia, ma non si può, non si poteva. Ecco, ci mancava il gufo vivo regalato a Susanna Camusso. Dall'altra parte invece, nel centrodestra, Berlusconi ieri è tornato. A parte l'audio che abbiamo fatto sentire, come dire, lui che ha detto: io avevo risolto il problema dei migranti perché avevo convinto Gheddafi a installare anche i bidet nei centri di accoglienza dei migranti in Libia, e i migranti li stavano bene, non ce n'era uno che veniva in Italia, giuro, non l'ho detto io, parole testuali di Silvio Berlusconi: avevo convinto Gheddafi, anzi avevo addomesticato Gheddafi, addomesticato, l'avevo convinto a mettere anche i bidet nei centri per migranti, bidet. Vabbè, ma comunque Berlusconi racconta Repubblica con Francesco Bei a pagina 6 e 7, ha un piano. Il piano sarebbe questo, peraltro un piano già respinto da Renzi. Il piano è: votiamo prima il successore di Napolitano e poi voteremo la legge elettorale. La legge elettorale. Siamo nell'82esima settimana. Vabbè, insomma. Quindi Berlusconi prima il Colle, poi il nostro sì all'Italicum. Il Premier però risponde: non esiste, va approvato tutto entro dicembre. Questo è il piano di Berlusconi, che però sarebbe già stato respinto da Renzi. Un Berlusconi che però oggi deve incontrare nell'ufficio di presidenza le critiche anche di Fitto. Fitto che sarà tra l'altro alle 9 ospite di Giovanni Minoli. E che succederà in questo ufficio di presidenza di Forza Italia? Beh, la promessa del Cavaliere ai suoi è questa, secondo il giornale: io resto fino all'estremo sacrificio, sono pronto a dare la vita. Così Berlusconi avrebbe detto ai suoi, secondo Francesco Kramer, per il giornale: sono pronto a dare la vita per riportare la democrazia in Italia. E poi, riguardo alle critiche, riguardo proprio a Fitto, dice: i panni sporchi si lavano in casa, l'ho sempre detto. Discutiamo, va bene, ci si può anche dare degli stronzi, ma non lo si fa tramite agenzie di stampa. Questa è la dichiarazione di Berlusconi ai suoi secondo il giornale. Ora non c'è alcuna associazione, per carità. Mauro Meazza, buongiorno. Ti giuro che arrivi adesso per una questione di orario casuale, assolutamente casuale. Cioè, hai letto proprio quella frase lì un attimo prima di chiamarmi in campo. Ti giuro, è proprio no, vabbè, ma non ti preoccupare, a volte sugli indagare sugli indagati, sui condannati, sai che mi piace divertirmi, in questo caso non mi sarei mai permesso. Ma adesso cerco bene sul Jobs Act, così come lo spieghiamo a pagina 2 se c'è qualche motivo per cui posso rivolgermi al giudice, all'ufficio del personale o anche al giudice, perché no? Perché no, no, tra l'altro guarda, ho un sacco di cose da leggere e qualcuna te la vorrei anche segnalare proprio sul Sole 24 Ore di oggi, quindi adesso poi mi segno anche questa cosa del Jobs Act, ma non ti preoccupare, pagherai caro, pagherai tutto. Ti voglio dire, il consiglio di classe è andato bene, sai che c'è stato il consiglio di classe dei professori di Bruxelles, però ci hanno detto che vabbè, fino a marzo più o meno la sufficienza ce la danno. E poi dopo a marzo vediamo, insomma, vediamo come va la verifica, sai, le solite cose, insomma, hanno detto siamo bravi però non ci impegniamo, eccetera eccetera, che poi è vero che siamo bravini, perché stavo leggendo qui sulle pagine di Imprese Territori che effettivamente andiamo bene anche come numero di brevetti depositati a livello europeo, cioè qualche cosa insomma riusciamo a produrre ancora, abbiamo delle capacità inventive. E d'altra parte però invece una notizia non buona: ieri c'è stata la rottura di fatto delle trattative per il contratto dei bancari, una cosa che si trascina da molto tempo. Ne riferiamo sempre nelle pagine di Imprese e Territori, negli aspetti che parlano di lavoro. Ti segnalo anche il caso dell'Istat, sì, perché i precari dell'Istat è sempre lì nelle pagine di Imprese e Territori, sono praticamente in agitazione. È un cascame, per dir così, del Jobs Act, e è tutta una vicenda che non è semplice da dipanare, vedremo come se la caverà il governo. Oh, e poi scusami, attimo di concentrazione, stai attento, qui Radio Fisco abbiamo le prime anticipazioni sull'abuso del diritto. Caro mio, tu fai il sarcastico, no, ma no, invece il sarcastico. L'abuso del diritto ha provocato una quantità di verifiche, contestazioni, liti fiscali che tu non ne hai un'idea. Adesso finalmente, dopo anni e anni, stanno per arrivare delle regole di ingaggio, quindi si dovrebbe capire che è l'abuso del diritto, cioè quando è che io ho esagerato a sfruttare gli sconti fiscali e quando invece no. Se vuoi scoprire, vuoi anche un po' aggiornarti, acculturarti, via dai Alessandro, insomma, elevati un po', leggi il Sole 24 Ore di oggi. Farollo. Poi ieri mi sono, non per mancanza di tempo, non ti ho segnalato che avevamo le prime anticipazioni sulla certificazione unica. È vietato, quello che si chiamava CUD, si chiamerà solo certificazione unica, è vietato però evocarlo solo con la sigla, perché per ovvi motivi, perché non vorremmo istigare al turpiloquio a quest'ora della mattina. Parlando seriamente, ci sono delle bozze, abbiamo come sarà prodotto, quindi che cosa riceveremo l'anno prossimo dai datori di lavoro come riepilogo dei nostri guadagni, anche dei tuoi sontuosi guadagni. Guarda che c'è una corrente di riduzione, c'è una corrente di riduzione degli stipendi, anche in Italia si sta riducendo gli stipendi, quindi prima o poi Alessandro toccherà anche a te, non è che puoi continuare. Io sono qua a disposizione. Non puoi guadagnare continuamente 2 euro al giorno per poi alla fine per che cosa? Per leggere i giornali, dai, esatto. Su, non siamo seri. Va bene, altro non ti vo' dire per il momento, magari ci sentiamo domani, oppure ti chiamo il mio avvocato per dipanare, per verificare insomma questo tuo lancio, eh? Siamo d'accordo così. È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino. Forse questo è il migliore, il migliore. Gli ombrelli, l'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Che bei momenti dell'infanzia, eh? Vabbè, allora ci sono ovviamente tanti articoli sui giornali dedicati alla vicenda del primo il paziente zero malato di Ebola, che è un medico di emergency che era in Sierra Leone, è rientrato tra grandi precauzioni ed è ora allo Spallanzani di Roma. C'è Gino Strada, il fondatore di Emergency, che fa un paio di interviste, una su Repubblica, una sul Corriere. Dice al Corriere: non sappiamo come si sia contagiato. D'altronde siamo dispiaciuti, ma siamo ottimisti, siamo anche un po' preoccupati. A Repubblica dice: chi non ha paura è un cretino. non sappiamo, ci ha chiamato domenica mattina, ha detto non sto bene, ho la febbre, e dire che lui è un medico molto molto scrupoloso e quindi aveva preso tutte le precauzioni del caso, questo per dire come sia purtroppo possibile in quei casi essere contagiati dall'Ebola. Abbiamo valutato l'ipotesi di curare qui questo medico, ma lui ha chiesto di essere evacuato allo Spallanzani. Sapete che su questo tema Gino Strada è sensibile, perché aveva detto io mi curerei qui in Africa se mi ammalassi, e il Corriere della Sera gli chiede, beh, lei aveva detto proprio questo, se si fosse ammalato si sarebbe fatto curare in Sierra Leone. A un certo punto Gino Strada dice, mamma mia che due coglioni ragazzi, l'ho detto, d'accordo, magari, insomma, vuole che ci pensi seriamente prima di ammalarmi, non possiamo parlare di cose serie. Ecco così Gino Strada intervistato da Michele Farina sul Corriere della Sera. Anche a Repubblica dice le stesse cose, più o meno Gino Strada intervistato in questo caso da Caterina Pasolini. Tra l'altro c'è una persona che in questo momento è in quarantena volontaria, si tratta di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che è andato proprio anche lui in Sierra Leone e in questo momento rientrato in Italia non ha alcun sintomo, dice sto bene, sto benissimo, ma sono in una quarantena volontaria su una barca a vela, così isolato, in modo da evitare per quei 40 giorni più o meno, quei giorni che servono a stare isolati, perché se si manifestasse la malattia lui non sarebbe non passerebbe, diciamo, il virus a nessuno. Quindi anche Guido Bertolaso in una quarantena ma volontaria in barca a vela, sapevatelo, come si commenta su Twitter. Ieri era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e torna prepotentemente alla ribalta con un'intervista Laura Roveri, una 26enne della provincia di Verona, che lo scorso 12 aprile è stata ferita con 15 coltellate dal suo ex compagno fuori da una discoteca. Perché torna prepotentemente alla ribalta? Perché guardate il titolo di Libero a pagina 19, minacce e 15 coltellate dall'ex, ma per il PM non ci fu stalking. Il pubblico ministero chiede l'archiviazione del reato di persecuzione per l'uomo che aggredì Laura. Resta ovviamente il tentato omicidio, quello non si può negare. E lei dice, è umiliante, ci sono testimoni, ci sono SMS. Ho ricevuto SMS di questo tipo, non metterti contro di me, sai chi sono, stai attenta a tuo padre, la mia vendetta ci sarà. E anche sei una puttana. I tuoi cani sono morti, i tuoi cani di M. Cioè tutti questi SMS, secondo il magistrato, dice Laura Roveri, non sono una prova di persecuzione. Questi sono gli SMS mandati poco prima del tentato omicidio. E ovviamente lei dice, ora sono sfiduciata, c'è troppa gente contro di me. L'intervista la trovate sul quotidiano Libero a pagina 19. Trovate molto anche della cronaca, ovviamente, di quello che è successo ieri a Ferguson, dove il gran giurì ha deciso di non incriminare, perché le prove sono insufficienti, il poliziotto Michael Brown, che ha ucciso Michael Brown nell'agosto scorso, suscitando già allora gravi conflitti anche su sfondo razziale, e Darren Wilson è l'agente che ha esploso 10 colpi d'arma da fuoco, non sarà incriminato, e da qui sono partite nuove violenze, nuovi disordini. Ferguson in fiamme, anche le vite dei neri meritano giustizia, interviene anche Obama. Si teme purtroppo che la situazione non sia per nulla conclusa e che possa continuare con scontri e disordini anche nei giorni a seguire. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Diciamo la verità, però, un articolo che abbiamo anche letto, perché queste cose fanno un po' gossip, ma comunque in prima pagina di Repubblica la smentita, poi mezza pagina del nuovo flirt tra Barbara Berlusconi e Filippo Inzaghi, come racconta Alessandra Retico, il comunicato congiunto all'ANSA e alle agenzie di stampa di Inzaghi e Barbara Berlusconi, che minacciano querele di adire le vie legali per chiunque si azzarderà a dire che tra i due ci sia una relazione. Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, qualche giorno fa, cari ascoltatori, sul Messaggero apparve il testo di una lettera che il Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Consiglieri ed Ex Consiglieri Regionali ha spedito, tra le altre, anche al Capo dello Stato, a Giorgio Napolitano. Il motivo è la questione dei vitalizi ai consiglieri regionali, agli ex consiglieri regionali. E in estrema sintesi, in questa lettera si leggeva: non pensate di ridurre i vitalizi degli ex consiglieri, perché altrimenti partirà una valanga di ricorsi. Per la verità, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, alla Lombardia, insomma, non esiste regione dove questi ricorsi non siano già partiti. Ricorsi contro l'obiettivo di tagliare alcuni di questi vitalizi, o meglio anche tutti questi vitalizi, del 10% in alcune regioni, per esempio, o di una percentuale maggiore. Insomma, questi vitalizi degli ex consiglieri pesano troppo sulle casse dei consigli regionali, in alcuni casi pesano per il 30%, e quindi la politica stessa dice bisogna fare un sacrificio. Gli ex consiglieri regionali dicono no, sono diritti che ci siamo conquistati grazie a una legge, non abbiamo rubato nulla, e questo è vero, non hanno rubato nulla, è la legge che le ha consentito, e quindi questi diritti sono acquisiti, non possono essere toccati, altrimenti noi faremo ricorso. Allora, saluto intanto Diodato Pirone del Messaggero. Buongiorno Diodato, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. Saluto anche un ex consigliere regionale della Lombardia, ha fatto 4 legislature, mi corregga se sbaglio, Luciano Valaguzza. Buongiorno Valaguzza, eccoci buongiorno. Qua. Buongiorno. Definito dai giornali, non so perché, il più ricco tra gli ex consiglieri regionali. Perché lei è definito così, il più ricco, quello che riceve una delle pensioni più alte, è no, vero? No, innanzitutto non è assolutamente vero, se mi dice in Lombardia sicuramente. Ah, in Lombardia sì. In Lombardia sì. Guardi, io... Quanto prende, possiamo saperlo, quanto prende di vitalizio? Guardi, nominativamente, diciamolo così, 6.300 e qualche cosa. Dormi. Ma io oggi ne prendo 4.300. Netti questi? Netti. Esatto, 4.300, esatto. Beh, un bel vitalizio per 20 anni di lavoro alla Regione Lombardia. Vede, il problema è questo, è che noi abbiamo versato obbligatoriamente il 25% di quanto percepivamo ogni mese. Sì, certo. E se volevamo avere la reversibilità nei confronti della moglie, dovevamo versare un altro 25%. Però credo che impostato così il discorso non regga, perché tutte le regioni sono uguali, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Se la regione Lombardia spende 6 milioni per i propri vitaliziati e aveva 80 consiglieri regionali, sì, come mai altre regioni spendono 20 milioni di euro, quindi tre volte tanto? Per esempio, quale regione fa questo? Oh, guardi, c'è stato il Lazio. Hanno fatto... Il Lazio, ci dice Pirone, proprio il Lazio. Sì, ma non solo il Lazio. Cioè, lei dice ci sono regioni in questo virtuose e regioni in questo più sprecone. Esatto. Io credo di far parte di una regione virtuosa. Che è sempre stata prudente, che non ha mai dato a nessun consigliere regionale il vitalizio a 50 anni, perché bisognava aver fatto almeno 5 anni di legislatura, quindi una legislatura, e altri no. E avere... Però mi faccia capire, 60 anni. Sì, mi faccia capire Valaguzza, prego. Lei ha fatto ricorso contro il taglio del 10% e tra i consiglieri della Lombardia che ha fatto ricorso? Non l'abbiamo ancora fatto, ma lo faremo. Perché è una questione di principio, capisce? Se in questo paese chi si comporta in modo corretto, preciso, puntuale e attento anche alle casse dello Stato viene considerato come quello che fa lo spendaccione e comunque si crea situazioni di privilegio, io non credo di avere un vitalizio d'oro, perché non è certamente d'oro. Tenga conto che se adesso entrerà in vigore la legge ci toglieranno un altro 12%, sì, quindi andrò sotto non... i 4.000 euro. Però Valaguzza, non è d'oro, 20 anni sì, di lavoro 4.300 euro, ma cioè se lo sognano gli italiani che lavorano 40 anni di lavoro questo... e hanno 800 euro, 1.000 euro. Ma su questo possiamo anche ragionare, però il problema qual è? Che quando noi, quando ci hanno trattenuto obbligatoriamente il 25%, noi non è che potevamo dire di no, no? Sì. Eravate obbligati, cioè, vi accantonavate il vostro vitalizio. Diciamo. No, veniva utilizzato dalla regione. Però insomma è importante quello che lei ci sta dicendo. Insomma, è un primo punto, Diodato Pirone. Il primo punto è questo: farete ricorso, non l'avete ancora fatto. Mi faccia sentire Diodato Pirone. No, ma Pirone, faccia un altro ragionamento. Sì. Perché non andiamo a guardare regione per regione? E questo adesso lo facciamo. Guardi, Diodato Pirone è del Messaggero, quindi scrive del Lazio, è ben informato sul Lazio. Quindi Pirone, intanto Valaguzza ne fa una distinzione tra regioni più virtuose e regioni più sprecone, però ci dice che 4.300 euro non sono un vitalizio d'oro e quindi questo 10% che vogliono togliere o 12% non va bene, si fa ricorso. È un ragionamento che un po' tutti gli ex consiglieri fanno, Diodato. Sì, assolutamente. Allora, sul piano tecnico il consigliere non ha tutti i torti, nel senso che ogni regione è una sorta di piccolo Stato, quindi ogni regione si è data dei suoi regolamenti. Nel campo dei vitalizi, obiettivamente alcune regioni avevano delle leggi particolarmente favorevoli, fra queste non c'è dubbio il Lazio, perché consentiva di andare di ottenerlo fino alla settimana scorsa a 50 anni, vorrei ricordare che quest'anno tre consiglieri hanno compiuto i 50 anni e quindi ex consiglieri e quindi sono gli ultimi tre italiani che possono andare in pensione a 50 anni. Beati loro. Ci sono dei regolamenti in alcune regioni assurdi, ricordo il caso incredibile della consigliera sarda Claudia Lombardo che a 41 anni prende 5.100 euro netti. Che chiamammo all'epoca, abbiamo chiamato varie volte, ha detto non intendo parlare. Tra l'altro devo dire, Diodato, abbiamo anche chiamato varie volte, ogni giorno la nostra Elisabetta Fusconi ha tre appuntamenti a telefonici col presidente Priolo, il presidente dell'associazione della lettera che tu hai pubblicato. Tutti i giorni dice ma domani, dopodomani, non lo so, vabbè, quando vorrà siamo qui, però prego Diodato. Dunque, ci sono 20 regolamenti diversi e dunque è chiaro, forse il caso più assurdo è quello del Trentino, no? Ricordiamo che il Trentino consentiva un anticipo del vitalizio, alcuni consiglieri si sono ritrovati vitalizi milionari, più di 100, vitalizi milionari da 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 e hanno ricevuto anticipi di 300-400.000. Dovremmo avere dopo la pubblicità anche Franz Pall, il presidente dell'associazione degli ex consiglieri del Trentino. Benissimo. Come sapete, in base alla nuova legge, alcuni di questi consiglieri, una cinquantina, hanno restituito quanto gli è stato anticipato. Il Trentino ha già ricevuto 19 milioni di euro. Bisogna anche dire che quindi, insomma, come dire, come prima si è esagerato, adesso siamo in una fase di riassestamento. La questione è questa, quando si chiede un sacrificio, visti questi 10%, capisci la questione tecnica di dire no, non si possono toccare, e poi ce lo dirà anche Valaguzza. Infatti il consigliere a un certo punto diceva è una questione di principio, è esattamente questo il punto, è una questione di principio. Complessivamente il consigliere Lombardo, che è un politico e quindi diciamo dovrebbe essere sensibile a questi argomenti, complessivamente le regioni hanno esagerato nei privilegi del loro personale politico, questo mi sembra che sia acclarato. Poi è vero che probabilmente la regione Lombardia era quella meno generosa rispetto ad altre, questo è possibile, però complessivamente il tema c'è. No, ma il tema c'è soprattutto, esatto, soprattutto va affrontata in questo contesto. Soprattutto la questione di principio, mi scusi Valaguzza, cioè lei si ponga nei panni, lo chiedo sempre a coloro che prendono una pensione come il suo caso, e lei dice non è una pensione d'oro, si ponga nei panni di un cittadino che dice ma cavolo, a noi ci hanno ritoccato in un giorno la questione del retributivo, il contributivo, e adesso chiediamo il 10% a chi prende 4.000 rotti e dicono no, è un principio che non si può discutere. Valaguzza, come la prende un cittadino comune? No, ma io la seguo molto volentieri su questa strada, tanto è vero che i consiglieri regionali della Lombardia avevano proposto un fondo proprio, ancorché nella finanziaria nessun lombardo sarebbe stato toccato con le soglie che erano state messe. Nonostante questo, noi eravamo disposti a fare un fondo volontario e fare delle borse di studio per giovani ricercatori, per giovani studenti, però non è stata accolta questa nostra proposta. Allora noi diciamo, ma scusate un secondo, le sembra giusto e io non ho problemi a dare il mio 12%, ma perché deve dare il 12% anche quello della Sardegna o quello del Lazio, che prendi tre volte quello che prendo io? Vabbè, ma lei allora cominci a darlo il suo 12%. Ma non c'è nessun problema, ma lo daremo. Ma detto che farà ricorso. Certo, faremo ricorso, perché così come è impostata la situazione non è sostenibile. Che il governo faccia una norma che sia uguale per tutti e abbassi tutti i vitalizi a 5.000, 3.000, 2.000, faccia quello che vuole. Ma io non posso essere... Sono stato serio, sono stato per bene e vengo discriminato, su questo punto, a tutti gli però altri. C'è un punto che non ho capito, Valacuzza. Lei dice, sì, io sono disponibile a dare una cifra per fare un fondo, però faccio ricorso se mi tolgono quel 12%. Perché da un lato io ho una imposizione, mi viene imposto e quindi vanno a ledere un contratto che io ho sottoscritto e ho firmato. Ecco, diritto acquisito. Capisce. Che però l'hanno cambiato tutti gli italiani, cioè io la domanda che gli ho fatto è questa: quando da un giorno all'altro ha messo il cambio delle pensioni, gli italiani si sono visti ritoccare gli esodati, tutta la vicenda. Sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Allora il ragionamento diventa: lo Stato, il governo, decida che nessun consigliere regionale, poi penso lo parametreranno sulla base degli anni che uno ha speso dentro lì, perché se uno ha speso nel Consiglio regionale 5 anni di legislatura, una volta uscito può riprendere a lavorare, eccetera, ma se ha speso 20 anni non credo che nessuna azienda avrà mantenuto il posto di lavoro che aveva. Però questo è un altro discorso, lasciamolo andare. Il ragionamento è: portiamo tutti ad un livello giusto, ad un livello corretto, un livello serio, sì. altrimenti chi è più onesto, e questo è il vero problema di principio, chi è stato per bene, sì, chi è stato per bene viene danneggiato come gli altri, non come gli altri. Allo stesso modo, ma tenga conto ad esempio della regione Lombardia. Praticamente quando uno aveva raggiunto 3 legislature e continuava a fare il consigliere regionale, continuava a pagare il suo contributo del 25% senza avere nessun vantaggio, perché non aumentava più il massimale. Vabbè, allora, ho capito, però lei ci sta dicendo la Lombardia si è comportata meglio, che ne so, del Lazio, di altre regioni. Detto questo, risulta, io la ringrazio anche per essere qui, perché insomma non è facile, molti negano l'invito e venire a spiegare le motivazioni di un qualcosa che risulta molto impopolare. Certo, risulta difficile da capire, a me non risulta difficile da capire, quando in un momento di sacrificio si chiedono i sacrifici a tutti, di fronte a un 10% c'è una valanga di ricorsi che sono annunciati. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:38 minuti. Stiamo parlando dei vitalizi agli ex consiglieri regionali. Con noi c'è Luciano Valacuzza, ex consigliere regionale della Lombardia per 4 legislature, prende 4.300 euro netti al mese. Con noi c'è Diodato Pirone, giornalista del Messaggero. Diodato, parliamo, ricordiamo, di 3.200 persone che costano circa 170 milioni l'anno allo Stato. Le regioni che hanno già tagliato i vitalizi sono Lombardia, Trentino, Molise, Lazio, al netto dei ricorsi, però tutte le regioni mi sembra che si sono impegnate nel farlo, no? Di italiani. C'è un accordo fra i 20 consigli regionali, perché entro la fine dell'anno ogni regione, perché ricordiamo che ogni Parlamento regionale è indipendente, diciamo, tutti i consigli regionali dovrebbero approvare delle leggi, diciamo, standard, in sostanza si sono impegnati ad imporre un contributo di solidarietà, una tassa, crescente, man mano che cresce il vitalizio, può arrivare al il Lazio per esempio ha un tetto massimo del 18% di prelievo, una tassa provvisoria di 3 anni. Io però volevo rispondere al consigliere, sì. Perché il punto secondo me è questo: perché avviene questo questo cambiamento culturale, perché tutte le regioni d'Italia, perché tutti i consiglieri sono passati gli stipendi, i vitalizi sono stati aboliti, sì. Quindi che cosa è successo? C'è un passaggio generazionale, il politico regionale eletto negli ultimi 2 anni, sì, non ha lo stesso privilegio che è stato consentito ai suoi predecessori. E meno male, non suggeriamolo, se no fa ricorso, cioè, anche lui, fa ricorso anche loro. Di principio, volevo rispondere su questo al consigliere Malaguzza, avendo i giovani, quelli che adesso lavorano, non avendo più il suo privilegio, quello che si chiama vitalizio, sì, è giusto che le passate generazioni contribuiscano. Loro hanno avuto una serie di uno stipendio più alto, sì, la possibilità di andare in pensione prima e così via. Sì, che i giovani non hanno, ma infatti non è questa la questione. Questa è la questione di principio. Malaguzza, io non so, io non credo, Malaguzza, che lei si renda molto conto di essere di aver avuto un privilegio, che no, la legge non è vero, ma come non è no? Vero. La legge ha consentito questo, scusi, per carità, ma è un privilegio. Dai. Ma no, perché noi se quel 25% invece di lasciarlo alla regione Lombardia che lo utilizzava, sì, quindi come voleva, noi l'avessimo dato ad una assicurazione, sì, certamente prenderemmo molto Ho di capito, più ma se lei vivrà 120 anni come le auguriamo, quanto costerà per l'investimento che ha fatto spese? Allora diciamo alla cassa che dello Stato. Che tutti devono arrivare a 73 anni e 6 mesi e poi li eliminiamo perché altrimenti paghiamo troppo. No. Però ci vuole una proporzione rispetto a quello che lei ha dato. No, ma mi segua. Io voglio farmi carico della situazione dei giovani, tant'è che abbiamo proposto noi un contributo di solidarietà volontario, sì, no? Però quello che non è accettabile è che io sono andato, ho firmato un contratto per comprare una macchina perché ho fatto i miei conti. Le cambiano le cose. E questo ce l'ha già detto, però è accettabile per tutti gli italiani. Per tutti gli italiani. No, però... attenzione, io sono d'accordo con lei, sì. Facciamo un lavoro serio. Allora, il lavoro degli 80 consiglieri regionali della Lombardia, che adesso comporta un esborso di 6 milioni di euro, no? È uguale al lavoro fatto, sì, dal Molise, dall'Abruzzo. Ma questo ce l'ha già detto. Ma questo sì, è un punto sul quale lei insiste e ce l'ha già detto. Però, Malaguzza, mi faccia salutare insieme a Diodato Pirone anche Franz Pall, che è presidente dell'associazione ex consiglieri del Trentino Alto Adige. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Allora, in Trentino Alto Adige ci diceva prima Diodato Pirone del Messaggero, e ne abbiamo parlato, c'è stato il vero, tra virgolette, scandalo, cioè soldi dati in anticipo. Poi dopo ve li hanno chiesti indietro dicendo no, abbiamo rifatto i calcoli, ci dovete dare dei soldi. Lei è vero che ha dichiarato io non do indietro un euro? Certo, e non c'è stato nessun scandalo, anzi nel 2012 è stata fatta una legge sui vitalizi, sì, con i quali noi consiglieri ed ex consiglieri abbiamo messo a disposizione del settore sociale, cioè per il cosiddetto pacchetto famiglia, per tutto il settore sociale, abbiamo dato a disposizione dal nostro fondo di garanzia per i vitalizi 56 milioni a favore del, sì, pacchetto famiglia. Però sono stati rifatti i calcoli e il consiglio vi ha richiesto indietro dei soldi, alcuni li hanno ridati i soldi. Questa legge diceva noi vi togliamo la metà dei diritti al vitalizio e il resto ve lo diamo in uno solo pagamento. Vi hanno liquidato somme, sì, le somme spettanti, sì, ma ripeto, poi adesso che ve le chiedono indietro, perché lei non le ridà? Una in nessun parte. Modo lo ridò, perché non hanno ragione di chiederlo, perché noi abbiamo dovuto firmare e l'abbiamo fatto perché il nostro partito, la Volkspartei, ce lo chiedeva. Abbiamo firmato un contratto col cosiddetto Pensplan Invest e del Consiglio regionale che diceva vi preghiamo di fermarlo perché non siete costretti, però se voi lo fermate questa liquidazione noi risparmiamo ulteriori soldi e quindi la metà dei diritti sui vitalizi non ci saranno più, però noi ve lo liquidiamo. E quindi questo contratto è irrevocabile. Cioè lei le hanno chiesto di restituire, se non sbaglio, 323.000 euro. Sì, sì. E lei ha risposto? No, siccome il contratto è stato firmato, la liquidazione è stata fatta, noi vogliamo che venga rispettata la certezza del contratto e la certezza del diritto. Ho capito, ma hanno cambiato, cioè si sono resi conto che forse non erano dovuti quei soldi. No. Noi abbiamo una perizia di un attuariato di Milano che dice che i calcoli sono stati corretti, sì. Quindi non c'è nessuna invenzione e i ricalcoli che sono stati fatti adesso sono veramente esagerati perché sono stati fatti su una base che non è stata mai usata nei casi dei vitalizi. Ecco. Ma a parte quello, il contratto vale e con tutta la legge abbiamo messo a disposizione 56 milioni. Quello è. Quindi, senta, quanta è la cifra che le avevano dato a lei, di cui le chiedono indietro 323.000, ma tanto lei non dà niente? Tutta la cifra, cioè siccome sì, il vecchio vitalizio non c'è più, è stata 1 milione. Cioè lei ha ricevuto 1 milione di euro per togliere tutto il vitalizio? Solamente una parte in liquidi, tutto il resto rimane nel cosiddetto fondo family, sì, per 8 anni e poi glielo daranno a disposizione del settore sociale. Però le hanno chiesto di questo milione, diciamo 323.000, e lei dice no. Assolutamente, cioè non le sembra di difendere un privilegio, una posizione un po' privilegiata, Presidente? Se io compro una macchina, lo pago e il contratto viene firmato, il venditore non può venire un anno dopo, adesso chiedo il doppio. Ah, ecco, no, è molto chiara la sua posizione. Guardate, io mi devo fermare qui, ma torneremo su questa vicenda. Da Diodato Pirone del Messaggero a Franz Palla, a Luciano Valaguzza, vi ringrazio. Devo dire, ci sono tantissimi ascoltatori anche sdegnati, indignati, raccolgo tutta la vostra indignazione e poi dopo ne parleremo ancora. Allora, alle 8:48 minuti voglio salutare subito la Presidente di Emergency, Cecilia Strada, buongiorno e benvenuta. Allora, intanto come sta, per quello che si sa, il medico di Emergency che è rientrato dalla Sierra Leone perché ha contratto l'Ebola purtroppo? Non l'ho ancora sentito dopo la nottata, ma ieri sera stava bene, aveva un po' di febbre, ma a parte quello era su di morale, molto su di morale, forte, tranquillo. Ha molto colpito il fatto, ho letto anche un paio di interviste di suo padre, Gino Strada, dalla Sierra Leone, a dire non sappiamo come abbia contratto il virus, questo a dire che insomma le precauzioni a volte purtroppo non bastano neanche. Fattore di rischio che è ineliminabile evidentemente, come dimostrano le decine e decine di operatori che si sono contagiati negli ultimi mesi, anche quando erano perfettamente equipaggiati, anche quando sapevano cosa fare. Purtroppo Ebola virus è molto molto contagioso. Com'è giù la situazione in Sierra Leone, cioè quanti operatori avete, come evidentemente vi comportate per cercare di evitare queste situazioni che purtroppo abbiamo visto possono capitare? Ma noi abbiamo giù 450 persone nei vari progetti che abbiamo in Sierra Leone, dove lavoriamo dal 2001, tra cui 34 internazionali e 26 italiani, e stanno tutti lavorando in sicurezza, quindi procedure specifiche per ogni ambiente, dall'accoglienza in pronto soccorso del centro chirurgico al centro di trattamento per malati di Ebola, che invece lavora con un'unità di isolamento, con una zona rossa e con le protezioni che ormai siamo abituati a vedere sui giornali, gli scafandri. Sì, quei famosi scafandri. Dal punto di vista ecco, abbiamo letto anche di questo farmaco sperimentale, ci puoi aiutare a capire qualcosa? Nel senso che ovviamente tutti speriamo che vada bene, purtroppo però la situazione, cioè, è una malattia molto seria, come sappiamo, muoiono moltissime persone in Africa di questo. Sì, si può notare notare anche negli ultimi mesi che la mortalità in effetti è diversa in Africa rispetto all'Occidente, il che dipende probabilmente da tanto le condizioni di salute diverse dei pazienti prima di contrarre il virus Ebola. Se sei un bambino sierraleonese, molto probabilmente quando contrai Ebola hai già la malaria, la diarrea e una serie di altre cose. Gli occidentali invece sono tendenzialmente sani nel momento in cui contraggono il virus Ebola. C'è una questione di personale, qui ovviamente in Italia c'è una ampia disponibilità di personale per prendersi cura di un solo paziente e là le proporzioni sono assolutamente rovesciate. Il nostro collega ora è ricoverato allo Spallanzani, dove proveranno anche questo farmaco. È un centro d'eccellenza, proveranno un po' di tutto, proveranno questo antivirale sperimentale, proveranno presumibilmente anche con il plasma di convalescente. Noi insieme a Fabrizio ha viaggiato una scatola sigillata con dentro del sangue che abbiamo prelevato ai nostri pazienti guariti. Questa è un'altra strada che si sta provando, perché il sangue dei pazienti guariti ovviamente è pieno di anticorpi e può aiutare la risposta immunitaria, certo, di chi è ancora malato. Persona. L'ultima cosa che le chiedo, Cecilia Stara, ovviamente fate grandi in bocca al lupo al vostro operatore. Sa che ci sono molte persone che hanno anche criticato, a dire: ma come, tornatevene in Africa, ecco, siete andati a fare la carità e adesso ci portate Ebola in Italia. Come si risponde a queste persone? Purtroppo lo vediamo succedere spesso in Italia, anche quando qualcuno si fa male in montagna e scatta la critica: ma perché abbiamo speso per l'elicottero di soccorso? O quando qualcuno viene rapito mentre sta facendo il giornalista piuttosto che l'operatore umanitario in giro per il mondo, si dice: se stavi a casa tua non ti succedeva niente. Beh, evidentemente se stiamo a casa in salotto non ci succede niente, e credo che invece si debba riconoscere un po' di rispetto a queste persone che stanno andando a fare un lavoro pericoloso, coraggioso, per senso di responsabilità. E chi si preoccupa che Ebola arrivi in Italia dovrebbe porsi altrettanto il problema di fermare Ebola in Africa occidentale, perché è ovvio che per proteggere i paesi vicini e lontani bisogna fermarlo lì oggi. Si ferma così operando sul territorio. Grazie Cecilia Stara, ovviamente in bocca al lupo. Grazie presidente di Emergency. Torneremo, ovviamente la cronaca imporrà di seguire questa vicenda, ma per chiudere questa puntata, noi abbiamo scoperto da un paio di giorni, ma lo abbiamo scoperto, lo sapevamo già, ma da un paio di giorni concretamente, che ci sono tantissimi italiani che ci seguono dall'estero in questo momento in presa diretta attraverso il sito, attraverso le app di Radio 24. E allora abbiamo deciso che da oggi, magari ogni giorno, comunque ogni tanto, daremo voce a loro. Vogliamo sentire che ne pensano. Ciao Italia! Qualcuno un giorno mi ha detto: ovunque tu vada ci sei già. Io ho risposto: cambio solo città. Lui mi ha detto: sì, vogliamo iniziare con la storia di un signore che si chiama Remo e che saluto. Buongiorno Remo, ciao. Buongiorno. Da dove ci parli? Buongiorno. Io veramente in questo momento sono di fronte all'Oceano Indiano, all'isola di La Diga, alle Seychelles. Che farabutto. L'Oceano Indiano, come se sei alla Dig. Remo, l'abbiamo conosciuto perché tutti i giorni, mentre quando apriamo la trasmissione, ci manda un messaggio dalla Dig, le Seychelles. Ma che ci fai lì alla Dig? Io sono quello che si chiama in Italia, adesso per fare questi nomi roboanti, lo chef executive di un piccolo hotel che si chiama L'Reper Hotel alla Dig, così faccio anche un po' di pubblicità, capisci? Mi sembra giusto, tanto è dietro l'angolo, veniamo tutti lì alla Dig. Sono qui da 2 anni con mia moglie, lei è la manager, io sono lo chef, gestiamo questo piccolo hotel, siamo dipendenti. È fantastico, cioè tu sei davanti all'Oceano Indiano adesso in questo momento? In questo momento sì. Che ore sono lì? Qui sono praticamente 10 a mezzogiorno. 10 a mezzogiorno. E quanti perché gradi... tra l'altro voi cambiate l'ora ogni tanto, mentre invece noi non lo facciamo. Ah, va bene, e quanti gradi ci sono lì? Adesso 31. 31. Con una leggera brezza che soffia dal mare, che è proprio simpatica. Sì, è simpatica questa brezza. Ma che, allora, che, perché sei finito lì? Hai la crisi? Cosa ti sei reinventato una vita? Sì, per forza, in Italia non ci potevo più stare, non mi piaceva più, non mi ritrovo più nelle situazioni che si vivono tutti i giorni, anche quelle che hai intervistato prima, cioè veramente. Questi sono i motivi per cui bisogna andare. Cioè, capito, quello che hai intervistato prima, perché tu ascolti, come ci ascolti da lì? vi ascolto con, con l'app di Radio 24 oppure con iTunes Radio, quelle applicazioni. E cos'è che non rimpiangi dell'Italia? C'è una cosa per cui dici no, non torno più? No, non torno più con la situazione politica, assolutamente. Ah, i politici, eccola. Eccola. Non torno più. Eccola. No, ma non se ne parla proprio. Questo sistema autoprotettivo non lo sopporto più. Di dove sei tu in Italia, voglio dire? Io sono dell'Alta Valle Camonica, provincia di Brescia. Perfetto. Sono montagnino. Un montagnino. Sai quanti chilometri ci sono dalla tua Val Camonica lì alla DIG? Abbiamo fatto 7.890. 7.890 chilometri. Ci ascolti, lanciaci un urlo, un ciao Italia, anche tu. Ciao Italia, ciao a tutti, e venite a trovarci, godetevi l'Italia e coraggio voi che siete rimasti. Coraggio, va bene, ci dai coraggio. Soprattutto la domanda finale è questa: ma sei lì alla diga di fronte all'Oceano Indiano, ma perché diavolo ascolti 24 mattino? Perché veramente, Alessandro Milan, sei un grande. Vabbè, adesso questa sembrava poi concordata. Comunque ti abbraccio, grazie a Remo. Remo Antonelli fa il cuoco alla DIG con la moglie, ci ascolta dalle Seychelles. Splendido, splendido. E domani dove andremo? Chi lo sa? Intanto saluto tutti e ci troviamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.